Una settimana delicata è quella che ci porterà all'apertura delle scuole, anche se alcuni istituti partono oggi, tra banchi singoli ancora mancanti e 60.000 professori in meno. È quella della prima definizione dei progetti per il Recovery Fund, con la riunione di venerdì del comitato presieduto dal ministro Amendola. È una settimana nella quale dobbiamo guardare con particolare attenzione ai dati sui contagi e sui ricoveri, mentre ci lasciamo alle spalle la manifestazione No Mask, chiamiamola così, di sabato. Ci lasciamo alle spalle, per fortuna, anche la Ferrari vista nel Gran Premio di Monza. Due ritiri non succedeva da un quarto di secolo, mentre ci godiamo la vittoria di un'altra scuderia italiana, l'Alfa Tauri, la ex Toro Rosso. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare. Mattino di Simone Spezia. Il pianeta quando è finito? Se non abbiamo dove andare, che facciamo? Moriremo tutti fino all'ultimo. Ed eccoci, care ascoltatrici e cari ascoltatori, buongiorno, buongiorno. Lunedì 7 settembre alle 6:32 minuti e con la voce delirante dalla manifestazione No Mask di sabato, che forse diventerà un nostro tormentone. Fammela risentire, Peter, fammela risentire, per favore, fammela risentire. Il pianeta quando è finito? Se non abbiamo dove andare, che facciamo? Moriremo tutti fino all'ultimo. Ah, mamma mia, ragazzi. Lunedì 7 settembre, buon inizio di settimana, vi aspetto 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio, le vostre voci, anche scritti, gli sms, i messaggi su WhatsApp. Ci siamo, che ve ne pare di quello che è successo sabato, di questa manifestazione? Che ve ne pare di come l'abbiamo trattata noi giornalisti? Qualcuno ci ha accusato, ha detto i media hanno dato troppo spazio a questi matti, Che ci dite? Che ci dite? Siamo anche su Facebook, su Instagram, su Twitter, le pagine le cercate sotto 24 Mattino. È facile, facile, facile. Allora, No Mask a parte. Sono ore delicate anche sul fronte del Covid, perché è aperto uno scontro abbastanza intenso su come il governo ha gestito le cose a fronte del rapporto arrivato dal Comitato Tecnico Scientifico. Il fatto che questo rapporto sia stato secretato su richiesta dello stesso Comitato Tecnico Scientifico e su come è stata affrontata l'emergenza. Il tutto al centro di una lettera mandata, scritta sul Corriere della Sera da Matteo Salvini a partire da venerdì, con una serie di accuse che lo stesso Salvini ha ribadito da Cernobbio, dove si è svolto il workshop Ambrosetti. Eccolo. Se risponde al vero che il comitato scientifico chiedeva la chiusura a nord in Lombardia e la mancata chiusura a sud e il governo ha fatto male, in ritardo, l'esatto contrario, allora c'è qualcuno che deve dare tante spiegazioni a 60 milioni di italiani. Così il ministro Speranza. Quella lettera di Salvini è sbagliata per questo, perché divide l'Italia dinanzi ad una sfida straordinaria e dà il senso, permettetemi di dirlo, anche di un leader piccolo che mette davanti il suo interesse di parte rispetto agli interessi del paese. Speranza, che poi però interviene anche nel merito, ossia dice: guardate che questo studio riservato ci è stato consegnato dai rappresentanti delle regioni, i quali hanno sempre partecipato a tutte le riunioni di governo sul tema Covid. E il documento del comitato, dice Speranza, lo ebbi da un delegato della regione Lombardia. E quindi, dato che la Lombardia è governata dalla Lega, Salvini ha poco da chiacchierare, dice il ministro. Fa sapere il presidente del Consiglio Conte intanto che è da escludere, improbabile, anzi quasi impossibile, un futuro lockdown. Possiamo affrontare con fiducia l'autunno perché non saremo più nella condizione di dover disporre un lockdown generalizzato. Saremo tutt'al più, se andrà male, nella condizione di dover intervenire in modo mirato. Quindi intervenire in modo mirato, no? Non lockdown generalizzati. A proposito di Salvini, c'è il tema dei rapporti con l'opposizione in vista anche dell'utilizzo dei fondi in arrivo dall'Europa, che arriveranno nel 2021, lo ricordiamo, Ci sono tutte le raccomandazioni che sono arrivate, coordinatevi, opposizione, governo, però... Tante chiamate senza risposta, dice Conte sul telefono di Salvini. Devo dire, con Forza Italia il dialogo è costante. Quando io chiamo, se non c'è la disponibilità a parlare, vengo subito richiamato. C'è un confronto costante, molto istituzionale, molto nel rispetto dei ruoli. Con Meloni anche, con la Giorgia Meloni anche, siamo confrontati varie volte e ci confrontiamo. Con Salvini ho qualche difficoltà perché quando gli lascio messaggi non vengo richiamato. Matteo, Giuseppe, rispondetevi al telefono. È vero che la coppia si è rotta in un litigio in una maniera brutale qualche tempo fa, però è il momento forse di risentirsi. Caro Francesco Specchia, come stai? Bentornato, editorialista di Libero, direttore di Pop Economy. Francesco, eccoci. Eccoci, buongiorno a voi. Buongiorno. Francesco, allora, come la vedi? Che ti pare? Qua mi sembra una settimana, come dicevamo all'inizio, che la settimana ci porterà a questa prima riunione sul recovery fund, ossia che cosa fare, come spendere questi soldi che arriveranno dall'Europa. Riunione alla quale arriviamo con un filo di ritardo rispetto per esempio a Germania e Francia. Il problema grosso è proprio una questione di tempi, cioè Cernobbio, che doveva che la riunione delle grandi menti dell'economia, in realtà ha partorito un topolino anche a livello di notizie, e il topolino, a parte questo piccolo rimbalzo sul nostro PIL che sarà probabilmente positivo, non a due cifre ma a una, a meno, insomma, ci dovremmo accontentare. Il topolino è quello di una notizia che il recovery plan non è pronto, noi abbiamo 209 miliardi lì fermi e ovviamente e dobbiamo fare definire le cosiddette aree di spesa, dobbiamo dare delle priorità di spesa su tutto quello che ci deve arrivare, perché se noi non abbiamo un rullino di marcia, una tabella, l'abbiamo detto tante volte, e cominciamo a sperperare tutti i soldini che ci danno in rivoli di cose inutili, è ovvio che quei soldi verranno ritirati, non arriveranno mai al fondo. Poi ci sono i 28 miliardi del fondo Sure, che sono quelli per la disoccupazione, ci sono, se li vogliamo, sempre che li vogliamo, 36 miliardi del MES. Il MES non lo nominare, per carità, Francesco, nominiamo, però ci sono anche, io continuo a insistere, queste 38, 40, 50 miliardi adesso pare di fondi di coesione non utilizzati, che non siamo ancora riusciti a spendere. Quindi se la mia domanda è la solita, se non siamo riusciti a spenderli finora, o ci organizziamo una pattuglia di persone in grado di farlo, oppure rimarremo con la sindrome dei soldi spesi per le elezioni, come è avvenuto nel decreto di agosto, dove si trovano infilati lì dentro delle prebende elettorali straordinarie, tipo non so, pagare i soldi a Campione d'Italia, a inaugurare una nuova authority per la Laguna di Venezia, imbrancare e assumere dei disoccupati a Taranto. Quindi ci troviamo sempre allo stesso punto. È il grande tema, non solo i rivoli, cioè il come li spendi, ma soprattutto quello che dicevi tu, che è la grande questione italiana, Francesco, è la spesa il controllo della spesa, e la verifica di attuazione dei progetti, che è una cosa che in Italia non fa mai nessuno, ossia mettersi là e dire qua, mi ricordo, no, nella stagione scorsa avevo letto un editoriale, non mi ricordo di chi fosse, che raccontava di come funziona, forse di Giavazzi, che raccontava come faceva Carlo Azeglio Ciampi quando era al Ministero dell'Economia. Cosa faceva? Quando c'era un progetto di spesa, chiamava i responsabili di area, di settore, le persone alle quali decideva di affidare il compito di spendere questi soldi e di utilizzarli, e faceva semplicemente quello che si fa in ogni azienda. Diceva, ok, allora, in ottobre deve essere stato fatto questo passo, in novembre deve essere stato fatto quest'altro, in dicembre deve essere stato fatto quest'altro, e controllava mese per mese, trimestre per trimestre, come stavano andando le cose, e nell'eventualità rimuoveva le persone che non funzionavano, che è un meccanismo aziendale molto semplice. L'Europa ci sta chiedendo questo fondamentalmente, certo, no? Non funziona però il rapporto dal Ministro degli Affari Europei in questo momento e poi tutti i suoi referenti locali, sugli enti, sui ministeri, quindi c'è una qualcosa nella catena di collegamento che si è rotto, che non è mai partito. Quindi si vanno a creare degli interventi in questo momento che non hanno né capo né coda, e oggettivamente c'è un criterio di spesa che è teso in questo momento allo sperpero. Però speriamo bene. Io ho poca fiducia, a dirti la verità, perché salvo pochi casi, forse la Puglia sull'attività portuale degli ultimi 10 anni, o il Bolzano, il Veneto, salvo pochissimi casi, i fondi europei non sono mai stati utilizzati a fondo e li abbiamo sempre dovuti restituire. Lo stesso Salvini, anche se adesso parliamoci chiaro, Salvini sta facendo campagna elettorale, ha anche ragione su alcune cose, sul famoso dossier segreto del Covid, ma quando era Ministero degli Interni chiese e ottenne 400 milioni che non furono mai allocati. Non si hanno più notizie di quei soldi. Perché? Perché non ci sono i funzionari e le persone in grado di spenderli questi soldi, che non erano fondi europei, sì, figuriamoci per fondi europei. È una questione istituzionale e amministrativa che viene ancora prima di chi governa, ed è la questione, forse veramente la questione centrale di questo paese, sicuramente. Così come una questione centrale, anche politicamente, senza ombra di dubbio, la ripartenza della scuola. Oggi riparte qualche istituto sparso in giro per il nord Italia, ma il grosso, come sappiamo, arriverà il 14 settembre. Cosa manca ancora? I famosi banchi monoposto, alcuni verranno consegnati addirittura in novembre. E mancano 60.000 docenti. Qua il grande tema del reclutamento dei docenti, un'altra questione che noi ci trasciniamo dietro da 20, da 30 anni senza mai risolverla compiutamente, e che ovviamente si aggrava con la questione Covid. Ieri la ministra Azzolina era ospite della nostra Maria Lattella nel suo nuovo appuntamento, che è il caffè della domenica, in onda appunto la domenica mattina. La scuola dice, a proposito della possibilità di chiusure, di quello che può succedere all'interno degli istituti nel momento nel quale si scopre un positivo al Covid, non è un posto fatato. È evidente che la scuola non è un posto fatato, un luogo asettico, incontaminato, in cui il rischio sia rischio zero. Ed è per questo che noi ci siamo preparati sempre con l'Istituto Superiore di Sanità e il Ministero della Salute per avere un protocollo e delle regole che dicessero esattamente alle scuole cosa si fa nel caso ci possa essere un contagiato in classe. C'è anche il tema dei delegati Covid, che sono le persone che si devono occupare di tutto questo, che non sono state formate. Ecco, qua Francesco, se sul punto che abbiamo trattato fino adesso abbiamo parlato di un problema che è istituzionale, che è connaturato all'Italia, per la quale vanno modificati proprio i meccanismi di spesa, qua mi pare che un po' di ritardo da parte del governo, con il concorso delle regioni, diciamocelo, ci sia stato oggettivamente. Sicuramente sono dei ritardi immani. Delle 85.000 carte disponibili ne sono state assegnate, come dicevi tu, meno di un terzo, quindi c'è stato un secondo giro di chiamate da parte dell'Azzolina, ma addirittura ci sono dei docenti che non hanno risposto. Poi ci sono degli errori clamorosi nei profili fatti appunto dal Ministero della Pubblica Istruzione, ma anche, come dicevi tu, diciamo, hanno contribuito agli errori anche le regioni. C'è ancora il nodo dei lavoratori fragili, quali sono, perché gli insegnanti che si dichiarano fragili possono richiedere di non andare a scuola, cosa fare se un alunno risulta positivo al test, non c'è una procedura precisa, ancora meno c'è, ma è molto farraginosa. E poi i famosi banchi monoposto, che qua a questo punto non arrivano, ci occorreranno i presidi con la sega per dividerli, no? I vecchi banchi. Ci sono delle regioni che sono già partite con oggi, per esempio Bolzano e Trento partono con i banchi, ma ne hanno fatto una richiesta minima, però il Lazio e la Sicilia, da che mi risulta, hanno fatto richieste enormi di banchi, neanche fossimo negli Stati Uniti, e in realtà questa richiesta impedirà loro di averli per tempo. Però anche qui c'è qualcosa che non va nell'organizzazione, perché se il Presidente della Repubblica Mattarella aveva richiesto, se non sbaglio proprio per oggi o per domani, una conferenza stampa congiunta di tutti i ministri e del governo per dire ce l'abbiamo fatta, applaudiamoci e ripartiamo con rinnovata lena, in questo caso nessuno dei ministri si è reso disponibile, compreso il Presidente del Consiglio, quindi c'è qualcosa che non vuol dire che non avevano esattamente fiducia nel loro operato. Doveva essere oggi ed è saltata. Quindi saltata. Ci sarà un motivo se tu dici al Presidente della Repubblica, guarda, evitiamo di parlare di scuola però. Sergio, meglio di no. Traffico, traffico, ecco, traffico. Quattro mattino. Non è ancora una riflessione condivisa con il governo, ma la presenza allo stadio, così come a manifestazioni in cui l'assembramento è inevitabile, certo, perché ci si siede vis-à-vis, vicinissimi, stretti, lei lo sa, come pure, attenzione, in fase di ingresso e di uscita si crea questo assoluto assembramento, secondo me non è assolutamente opportuno. La Lega non possono nulla davanti al Comitato Tecnico Scientifico Nazionale. Quello che può accadere è che i governatori delle regioni illuminati possano decidere in autonomia. Queste elezioni sono il 21, noi giochiamo fuori casa, poi rientriamo e speriamo che qualche cosa, che San Gennaro ci metta una parola buona e convinca ad aprire il 50% del San Paolo. È il primo, era il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Il secondo, il Presidente del Napoli, De Laurentiis. Siamo con Luigi De Magistris, il Sindaco di Napoli, perché la pressione più forte mi sembra sia partita da voi, anche dall'amministrazione, dal suo assessore Borriello. Sindaco, buongiorno innanzitutto, che dice, forse questi stati si possono riaprire, il San Paolo può riaprire in piccola parte. Eccoci. Buongiorno. Io da diversi mesi ho sostenuto, quando ormai eravamo fuori lockdown, che bisogna provare a trovare un punto di equilibrio, cosa che spesso o qualche volta il governo non ha fatto. Vediamo il caso delle discoteche, è stato eclatante. Non è che si può andare dagli eccessi, impianti sportivi, non solo gli stadi per il calcio, tutti chiusi o tutti aperti. Uno stadio un terzo si può prevedere tranquillamente, non lo vedo il rischio di assembramento, è anche una responsabilizzazione dei tifosi, poi se non sono in grado un minuto dopo chiudi, io penso si possono regolamentare gli accessi come orari, pensate un San Paolo con 50.000, 60.000 arrivi a 20.000, ci sono i posti a sedere, io veramente questa, ogni tifoso può stare a 3 metri di distanza dall'altro, mi sembra un eccesso sinceramente. Diteci anche voi, cari ascoltatori, cari ascoltatrici, cosa ne pensate? 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio, le vostre voci, gli sms, i messaggi su WhatsApp. De Magistris, c'è chi dice, insomma, non hanno ancora riaperto le scuole. Le riapriamo tra tutte queste precauzioni, pur dovendo fare i banchi singoli, pur dovendo stare alcuni con alcuni istituti che faranno la didattica a distanza. Pensiamo a riaprire gli stadi? Guarda, io le parlo da una città, insomma, ha dato un esempio nel lockdown, ma anche nelle fasi successive in termini di rispetto del distanziamento, della salute. La scuola è molto più importante dell'impianto sportivo, infatti sarà la vera sfida del nostro paese. Io sono per tornare a scuola, non esiste proprio la didattica a distanza. Sono le grandi sfide insomma, io non penso che dobbiamo abituarci a una fase lunga di convivenza con il virus, che non significa essere superficiali o spregiudicati, anzi, bisogna essere sempre più responsabili, igiene, distanziamento, mascherine. Lo si può fare in un impianto di basket, lo si può fare in un impianto di nuoto, lo si può fare in un impianto di calcio, altrimenti rinunciamo a prescindere, oppure facciamo come il governo e con le discoteche, fatto una figuraccia, cioè, voglio dire, allora cerchiamo di responsabilizzare il paese, che forse ha compreso che questa è una sfida lunga, altrimenti rinunciamo, perché una partita di calcio senza tifosi forse è meglio allora a un certo punto chiuderlo proprio il campionato. Ma lei davvero, De Magistris, crede che sia possibile evitare gli assembramenti una volta che le persone entrano nello stadio? Non lo so, mi lascia perplesso, per carità, poi... Ma lei adesso non li vede gli assembramenti nel paese, stanno, come dire, eliminare le persone camminano, girano, se le responsabilizzi... Io le faccio esempio in Napoli, non sono il Presidente del Consiglio, sono il sindaco di una città complessa in cui gli assembramenti sono anche un po' naturali per certi versi e i cittadini, se ben informati, sono in grado. Se poi al primo test ti rendi conto che il tifoso non è in grado, chiudi. Io punto molto sulla responsabilizzazione delle persone. Io credo che si può arrivare, ripeto, poi parliamo di un terzo, non è sto dicendo che devono entrare i tifosi, uno dice entriamo tutti quanti, un 30% di capienza, c'è stato un test a Castel di Sangro dove si è allenato il Napoli, sono entrate 1700 persone su un impianto di 7000, mi pare che è andato benissimo, insomma. Proverei a puntare sul popolo italiano. Proviamo e vediamo che succede. Ascolti, De Magistris, cambiando argomento, si faccia fare una domanda, se intende commentarlo naturalmente. Oggi il quotidiano La Repubblica parla di un'indagine partita da Napoli su Vincenzo De Luca, il presidente della Campania. Si parla di di favori ai suoi quattro autisti. Cosa ci dice? Cosa ne pensa? No, non la posso commentare, innanzitutto nemmeno ancora l'hai fatta la rassegna stampa, ma poi credo che non sia giusto fare un commento immediato su una persona con la quale c'è un distanziamento etico e politico, diciamo, molto, molto approfondito. Distanziamento sociale, se no diventerebbe subito strumentalizzazione politica. Ecco, la metterei su questo. È polemica. De Magistris, ce l'avete pronti? Avete inviato ad Amendola i piani vostri per il recovery fund? Per tutto i fondi? Pronto. Tutto i sindaci pronto. Coesi, oggi era la data con cui dovevamo mandare tutto, e oggi partiranno da Napoli progetti importanti. Speriamo che il governo finalmente punti anche sulle città. Ce ne dica uno, che abbiamo 30 secondi. Ma ce ne sono diversi. L'albergo dei poveri, va, che c'entra molto anche con questa fase. Luogo di solidarietà, di accoglienza e con un'operazione di rigenerazione urbana. È la struttura più grande che abbiamo in Italia, che fu utilizzata molto, molto tempo fa, nel Novecento, per dare accoglienza a chi stava in difficoltà. Grazie Luigi De Magistris, sindaco di Napoli. Grazie a voi. Buona giornata, grazie a Francesco Buongiorno. Specchia, editorialista di Libero, direttore di Pop Economy. Come sempre, per dire la vostra, 349-238-6666, WhatsApp audio, SMS, WhatsApp, le vostre voci, quel che volete. Noi ci risentiamo tra poco con la rassegna stampa, poi alle 8.15 il consueto appuntamento ormai con Paolo Mieli, alle 8.30 avremo ospite Matteo Renzi e poi parleremo di No Mask.